Per quanto riguarda la Rossol Art, dicevano come è messa? Allora, io sono la U, di solito screccio, però di notte quando c'è roba piena si esce con le bombole. Non esco da solo, insieme a me ci sono i BKR che non, di solito non graffitano con me, però io c'ho un socio che è BKR, si chiama Bobo. Anche se un po'. Non si dico, posso dire parolacce, no? Stasera non è venuto, comunque io graffito con lui, ci facciamo la stazione, però non diciamo il mio nome vero, perché sennò poi vengono qua. Vengono qua con tutte le manette. Allora, stazione, sotto i ponti, venite a Vigevano e vedrete questi favolosi Rossol Art. Ritorniamo un po' invece all'aspetto musicale, il vostro stile? Elio è una nostra fonte di ispirazione. È la nostra musa ispiratrice. Però la nostra musa ispiratrice rimane sempre la musa ispiratrice. La musa, anche la mucca.